ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con Supersite su Aruba.it. Sessualmente ambiguo, è ambiguo, perché da quello che fa capire gli piace anche un trans. A me il trans proprio non esiste. A Cruciani piacciono i trans? Ma lui l'ha dichiarato, cioè che se dovesse capitare un trans non avrebbe problemi. Quando chiama quella turca, il turco, come si chiama? Efebal. Eccoci. La zanzara. Tutto il resto è gioia. Efebal. No, non ho detto gioia. Volevo dire a voi, cari amici, stiamo preparando, abbiamo deciso di fare una cosa ben fatta, cioè a metà settembre ci riuniamo con tutti i presidenti dei vari movimenti spontanei, perché poi in ottobre, vi diremo esattamente qual è la data, in ottobre, vi chiedo scusa, ma mi stanno chiamando, abbiate pazienza. Mi stanno chiamando, non dovevano chiamarmi e vi chiedo scusa, abbiate pazienza, mi hanno chiamato, abbiate pazienza un pochettino. Grazie Presidente, grazie Ministro. Molte cose sono state dette, le chiedo una cortesia. Ieri sono stati fatti 41.867 tamponi. I positivi sono stati solo 114, fra i positivi peraltro, lo citava anche lei, 28 ce li hanno mandati in regalo con gli sbarchi in Sicilia e altri 11 con gli sbarchi in Calabria. Almeno questi potreste fermarli. Abbiamo problemi con i positivi italiani, almeno i positivi del resto del mondo. Possiamo evitarceli? Se c'è un ministro dell'interno che si faccia sentire, si faccia valere, si faccia vedere. La qualità dell'audio è pessima. Ma perché? Chi gliel'ha detto? Piantala con sti bonghi, non siamo mica in Africa. Porti i capelli lunghi, ma devi fare pratica. Sei sempre fuori tempo, così mi uccidi l'Africa. E avrà pure tanti problemi, ma di sicuro non quello del rimo. Abbiamo avuto addirittura quei due, scemo più scemo, di quella rubrica, di quella... Le zecche, come si chiama? Le due zecche di quella rubrica radiofonica che ci hanno detto è un fake. Il fatto che c'è un'emergenza nel nostro paese. Noi vogliamo ricostruire l'Italia dal 1 agosto. Noi in marcia dal 1 agosto per ricostruire l'Italia. Viva l'Italia, viva la libertà. Ma non si rende conto, perché lui è proprio fatto così, è malato, è un decelebrato. Ma che pezzo di merda sei, Cruciani? Ma sai che questo è un problema? Io ti ringrazio, Giuseppe, ho sentito che forse le zanzare la tirano via. Non ce n'è Covid! Oggi torna così, raga, se vi siete salvati alla diretta siete miardati, fratelli no! Fratelli no, prendi il muro, fratelli! Purtroppo in diretta da uno disastroso appartamento procurato querella. Dalla 7, David querella. Parenzo querella, da Roma. Buonasera, buonasera, buonasera. Ho già parlato con i legali dell'azienda e ti portano via tutto. Ma che ti portano via tutto. Ma non ho nulla di intestato, per cui non rompere i coglioni. Ti querellano, ti portano via la radio. Monterosa, hai appaltato lo spazio dalle 18:30 alle 20:50 a un manipolo di ubriaconi, di fascisti, di nazisti, di neonegazionisti. Chiedo all'azienda che giustamente mi ospita e mi paga, come mai continuate a tenere aperta questa cosa? Uno spazio appaltato a negazionisti del Covid, gente anti-industrialista peraltro, comunque ne parleremo. Monterosa 91 20 149 Milano, ciao. Allora, no, iniziamo da una signora che è una parlamentare dei 5 Stelle e che tra l'altro è una collaboratrice di giustizia. L'audio non si sente benissimo, però ti farà incazzare, caro Davide. Si chiama Piera Aiello, tu impegnato nelle cose di oggi sicuramente non ci hai fatto caso. Questa qua è una collaboratrice di giustizia, ripeto, c'è una pentita, sostanzialmente pentita, sì, insomma, no, una collaboratrice di giustizia, non pentita. La quale dei 5 Stelle che paragona la condizione dei collaboratori di giustizia ai gli ebrei nei campi di concentramento. Nei campi di concentramento. Sì, senti, l'ho visto. Meno male, noi la fortuna che hanno avuto gli ebrei di essere uccisi nei campi di concentramento non l'abbiamo avuta. Senti, una gaffe abbastanza clamorosa. Una abbastanza dici tu. Abbastanza dici tu. Tu dici abbastanza. Ma no, non voglio sminuire. Avete sentito, amici radioascoltatori, lui dice abbastanza. Ma non voglio sminuire. Abbastanza. Sminuisci, continua a sminuire. E ti arriva un'altra querela, non ti preoccupare. Allora, te ne facciamo arrivare un'altra. Pensa a te. Allora, ovviamente il testimone di giustizia non vuol dire lui pentito. Alcuni testimoni di giustizia sono abbastanza pentiti, altri no, naturalmente. Però questa dice, questo non c'entra nulla, dice, gli ebrei venivano uccisi, noi questa fortuna non l'abbiamo. Senti. Mamma mia, fortuna. Abbiamo tutti un numero di matrice, questo che lo sappiate, però dico una cosa, che gli ebrei quando venivano portati ad Auschwitz avevano la fortuna di essere uccisi, noi invece siamo uccisi giorno per giorno. Questa fortuna purtroppo non ce l'abbiamo. Ma tu ti rendi conto o no? Cioè, abbiamo un numero di matricole. È già dire una cosa del genere è una follia totale. Cioè, mamma una follia assoluta, mamma anche perché mia. Lì c'è una mamma scelta. Mia. Cioè, se uno diventa collaboratore di giustizia è perché sceglie di farlo, no? Anche se ma è costretto, certo, eccetera, eccetera. Certo. Quelli venivano messi nei treni, di che parliamo? E in più mamma dice mia, quelli hanno avuto mia la fortuna di essere uccisi, invece noi moriamo ogni giorno. Ma che roba è? Dai, su. E lui zitto. Ma è lui come zitto? Ma come zitto? E lui zitto, dai. Complice. Non ne parla, incredibile. Ragazzi, uno dei miei idoli, Bassetti, parliamo di Covid, Bassetti, from Genova. Non abbiamo più praticamente casi era di terapia. Ospite in onda ieri. Benissimo, ottimo, lo vedi? Ieri. Lo vedi? Nuovi contagi dillo, sono importanti. Dillo, no, non però, dico un cazzo. Che era sulla 7. Dillo! Questo è Agorà. Non esiste emergenza ospedaliera, no, questa è Agorà. All'esterno ecco, bravo, senti. All'esterno c'è l'immagine di Italia in emergenza. Questo è buono, senti. Però cerchiamo di non dare l'immagine all'esterno, perché io francamente da medico non la condivido, che noi siamo ancora in emergenza. Perché quando io mi siedo, come è successo in questa settimana, con dei colleghi spagnoli, francesi, portoghesi, inglesi, loro l'immagine che hanno è quella che arriva dai giornali in cui gli dicono che noi siamo ancora in uno stato d'emergenza. Ah, e non hai detto niente ieri sera, Bassetti, non l'hai attaccato dicendo che uno, no, che uno che non è prudente, che uno che, no, che uno sconsiderato, non l'hai attaccato no, ieri vabbè, sera, no, sei stato insomma, muto, sembrava zitto nei confronti di Bassetti, muto, silenzioso, l'hai lasciato mamma parlare, sì, in libertà, io dico, no, l'hai io lasciato, dico, non gli esiste. Hai detto che è un irresponsabile, non gliel'hai detto in faccia in collegamento lì da Genova, sei un irresponsabile come fai qui, ma io dico, non gliel'hai detto, sei stato moderato, calmo, sì, ho ma capito che la differenza. Di trasmissione è una trasmissione in quale i conduttori passano l'80% del tempo a delegittimarsi, insultarsi, no, ma io non ho capito perché parlare delle ce l'avevi in collegamento una piccola critica, non l'ho sentita, non l'abbiamo sentita, ascoltatori, no. Ogni giorno tu dici qua sono degli responsabili, attacchi Zangrillo, attacchi questi, stavi lì, potevi dire scusi dottore, scusi, solo una cosa piccolissima, scusi dottore, secondo me le sue frasi ma sono un po' irresponsabili. Potrebbero essere mal interpretati. No, muto ha fatto intervenire Telese, che vai è d'accordo con Bassetti, peraltro. Perché ma, no, Telese, Telese è un irresponsabile. Telese è un irre. Telese, peraltro. Che fa? Che è successo? Ieri, che a un certo punto si è alzato in piedi, ha abbracciato, voleva abbracciare Buffagni, il vice ministro allo sviluppo economico, il quale in diretta si è spostato e ha detto no, mantenga la distanza di sicurezza. Perché lo vuole abbracciare? Cioè, perché è pazzo, ragazzi, perché questa è l'altra ragione vera. Come è pazzo? C'è come una scena pazzo? Clamorosa. Ma è pazzo, si è alzato, a un certo punto ha detto se io fossi al suo posto, si è alzato, si è avvicinato quando bisogna mantenere il metro di distanza senza mascherina, e il vice ministro subito ha detto no, si sposti, bisogna mantenere la distanza. Ma perché lo voleva abbracciare? Capite? Per solidarietà tra gente sovrappeso, ma perché cosa? Ma gente un po' sovrappeso. Come ti permetti? Come ti permetti di offendere? Ma perché passi il tempo ad offendere? No, ma per sovrappeso ho detto. Allora io da oggi ho messo una linea diretta che è collegata all'ascolto della radio, al telefono, che parte in automatico l'acquerella all'avvocato. Cioè, appena io se il telefono con l'intelligenza artificiale, parole chiave, lui subito parte con la chiamata in automatico e subito parte il collegamento con l'avvocato. Allora, ragazzi, sapete quanto io sono d'accordo con le famiglie, le unioni gay, i matrimoni, addirittura oltre quello che è stato fatto in Italia. Io sono d'accordo con qualsiasi cosa, pure le cose su cui Parenzo le adozioni. Cosa? Io sono a favore delle adozioni, così sono a favore delle sei a favore dell'utero in affitto, io invece sì. Ma sull'utero in affitto, cioè, due gay possono costruirsi un figlio in America, in Russia. No, aspetta, possono se adottare. Lo possono costruire. No, possono secondo me adottare. Se lo possono anche costruire. No, costruire un figlio è brutto da dire. Ma anche eterosessuali. Ma chi è che dice sì? No, tu, io dico no. Comunque, però uno ha anche il diritto di protestare contro le famiglie, le unioni di fatto, contro le famiglie gay. Cioè, ha diritto di pensare che la famiglia è composta da un uomo e una donna. Così un prete in provincia, non so dove, di Taranto, credo, no, a Lizzano, non so dove, in Puglia, credo, organizza una preghiera per la famiglia tradizionale. Mi sembra una cosa normale. Cioè, io sono... E un sindaco va là a dire che dovrebbe essere prese quelle persone e denunciate perché non so che cosa. Sentiamo questo sindaco, è dei Five Stars. Questo è il diritto dei cittadini. Non sto violando i diritti dei cittadini. Ma stai prendendo i nomi, che cosa significa? Per pubblica sicurezza, sì, signor sindaco. Io potevo essere stipendiato. Vorrei acquistare un veicolo commerciale ibrido, ma non so quale scegliere. Tu che dici? Ford Transit o Ford Transit? Scegli l'unico veicolo commerciale ibrido diesel. Ford Transit Hybrid. Meno consumi, più attenzione per l'ambiente, stessa capacità di carico. Tuo a €230 al mese, anticipo zero, IVA esclusa. TAN 349, TAEG 454. Veicoli commerciali Ford. Da sempre al fianco di chi lavora. La Zanzara. Barisoni gay. Cosa? Stanno sanificando il negozio, il mio centro estetico, il mio salone. Iniziano dalla pavimentazione. Ecco qui. Cruciani, tu sei un pezzo di merda, cazzo. Sei un pezzo di puzza, ecco, pezzo ecco. di coio. Ecco, ma perché non commenti i dati dell'Istat? Pezzo di merda. Commenti i dati dell'Istat. Che stranieri stanno andando via dall'Italia. Ma commenta anche quanti italiani sono scappati dall'Italia. Quanti sono? Prova a dirlo, pezzo di merda che non sei altro. Prova a dirlo, pezzo di coio. Prova a dirlo, commenta i dati. Tu, giornale del foro, perché non commentate questi dati qua? No? Commentate solo quello che è conveniente per voi. Pezzo di merda che non sei altro. I stranieri stanno andando via dall'Italia. E italiani stanno scappando dall'Italia. Vai a vedere i dati dell'Istat. L'unica regione qua, l'unico comune in Italia che ha avuto e che ha mantenuto le sue nascite è stato Bolzano. Vai a vedere, cazzo. Vai a vedere. Non c'è più nessuno con questa cazzo di paese. Non c'è più nessuno. Vai a vedere. Ma vattene, pezzo di merda che non sei altro. Paco, ma che vuoi? Vattene. Ma perché? C'è pure ragione questo. Ma non ha ragione un cazzo. Non ha ragione di nulla. Tutti che vanno via. Ma che dice? Ma Paco. Senti ancora. La rabbia di Paco che va rispettata, va capita, va interpretata, va indagata, va interpretata. Si va interpretata, perché è una rabbia di chi lavora nelle nostre fabbriche, nelle nostre case. Ma quale rabbia? E che ha il diritto ad arrabbiarsi. Va capita. Voi siete sovrani, no? Voi, l'Italia vi appartiene sovrani. A voi, a te, Salvini, Moro, anche Giordano. L'Italia vi appartiene a voi, l'Italia. Pezzo di... Guarda, sei un pezzo di puzza, cazzo. Sei proprio un pezzo... Tu sei un bastardo nell'animo, Cruciani. Tu sei un bastardo dentro l'anima. Tu sei cattivo, cazzo. Hai una cattiveria. Io ti sputerei in faccia, pezzo di me. Io spero di non incontrarti mai nella mia vita, cazzo. Io spero di non incontrarti, perché ti sputerei in faccia, dirti pezzo di merda. Sei anche schifoso, brutto, schifoso, sporco. Ma vai a fare il culo, cazzo di merda. Scusami, Davide, tu hai incontrato una volta Paco, no? Cioè l'hai incrociato. Come no? Come una persona molto per bene. Che dice molto a me che sono uno violento, e dice a me che sono uno. Ma ti rendi conto? Ci siamo abbracciati. Rendi conto di chi stai abbracciando, una persona molto per bene, moderata, molto per bene, ti sputo in faccia, una persona per bene. Quello è un modo di dire, su. Il coronavirus l'abbiamo portato noi, Ma chi l'ha detto? L'hanno portato gli africani, ma chi lo dice? Ma chi lo sostiene? Dove è cazzo partito il coronavirus? Voglio ricordarti solo una cosa: in Senegal sono 148 morti fino adesso. 148 morti. Sono 7.000 i contagiati. Allora? Fai tu il conto. E siamo noi che portiamo qua la malattia. Ma chi lo dice? Lo portiamo noi qua in Italia. No, l'Italia non c'è il Covid. L'unico Covid che c'è se lo portano i migranti. Ma tu ti devi solo vergognare. Ma chi lo dice? Ti devi solo vergognare, pezzo di puzza che non sei altro. Ma chi l'ha detto? A tua manca la dignità. Tu non parli di dignità. Tu ne parli di dignità. Ah, questo è quello di destra, ragazzi. Questo qua è completamente pazzo. Sgarbone ieri dalla camera. Vai. Sgarbone ieri dalla camera. Quest'atto amministrativo, anch'esso con i suoi limiti e quelli a venire, sono fortemente contrastati da una gran parte della comunità scientifica che oggi si rappresenta nelle posizioni ripetute del dottor Zangrillo in maniera molto precisa, e ancor più oggi da Massimo Clementi, che è il primo virologo del San Raffaele, il quale dice: nessuna seconda ondata micidiale, lo stato di emergenza non ha senso. Hannah Arendt, lo vorrei ricordare alla collega Iannaro, quando ha indicato la condizione di resistenza contro il nazismo, ha scritto una frase che oggi a Bolzano è contro il credere, obbedire e combattere di Mussolini. Nessuno ha il diritto di obbedire, che vuol dire tutti abbiamo il diritto di disobbedire, ribellarci, combattere, vincere contro il male. Grazie onorevole Sgarbi. Allora, la Santanchè si è incazzata perché i rappresentanti del governo, durante credo il vertice notturno sulla questione dei Benetton, la questione delle autostrade, sì, naturalmente, hanno mangiato il cibo da un fast food americano, ti giuro, l'ha detto. Qual è il problema? Cioè, sì, lo so, gli hamburger hanno mangiato. Ma chi se ne frega? Ma chi se ne frega di quello che hanno mangiato? Perché devono mangiare italiano? Ma chi se ne devono mangiare? Ma io lo voglio dire chiaro, italiano, devono mangiare ma italiano. Ma chi se ne frega di quello che mangiano? Ma se si fanno portare la roba da McDonald's o non so da dove, sì, ma chi se ne sbatto, da un bistro, ma lo sto dicendo. Coraggio di dire, ma lo sto che dicendo, cretino, ma dire è una sciocchezza, certo. Ciao amici, volevo condividere con voi una notizia che mi ha dato molto fastidio. In questo momento è in corso il Consiglio dei Ministri, lasciamo perdere, dovranno decidere su autostrada, tale spasticcio che vedremo come ne usciranno. Ma detto questo, devono mangiare, normale che sia, sì, perché tutti mangiamo. E cosa decidono di mangiare? Cibo di un importante fast food americano. Allora mi fa incazzare questa cosa qua. Perché ti fa incazzare? Ma uno voglia gli hamburger, ordiniamo gli hamburger. Se no, altrimenti non è che, a parte che non so che ore erano, magari era l'unico aperto, l'unico disponibile. Erano le 10, erano le 22, 22, 30. Ma perché 30? Per forza la pasta asciutta so da Tonino e il carrettiere sotto? Qualcuno voleva degli hamburger, che cazzo, un hamburger, una insalata, non lo so. Perché noi tutti dovremmo sostenere l'economia italiana, le aziende italiane, il cibo italiano, le eccellenze italiane, e questi si mangiano i panini di noto fast food americano. Complimenti. A voi fa incazzare o no? No. Mi faceva piacere sentire la vostra opinione. Ma non c'è nessuna opinione. Poi voglio dire, non è santa che, però, Daniele, quei prodotti là, non so se era McDonald's, non ce ne frega un cazzo, possiamo fare i nomi tranquillamente. Ma lì ci sono tutti i prodotti italiani. C'è dentro quella là, la carne c'è italiana. Carne italiana. La gente che lavora è italiana. C'è solo il marchio McDonald's, o il marchio non so che cazzo altro. No, ma la carne, i prodotti sono tutti tipici italiani, sì, DOP, sì, certificati, sempre, peraltro. Alì da Milano. Alida Milano. Vabbè, che comunque vuole, lui non lo che dice vuole. Perché gli fa comodo lisciare il pelo alla Santa. Ma lo sto dicendo, lo fa passare. Alì, c'è Alì o no? Alì da Milano. Ci sono. Ciao Cruciani. Che cazzo vuoi, Alì? Alì. Mi fa piacere che la prima chiamata sia dell'amico Alì, un italiano doc. Grazie per aver chiamato. Alì, ti stanno chiamando da sotto, perché sento il telefono che ti stanno chiamando da sotto, li mortacci tua. Alì, grazie per essere in Italia, Alì. Grazie per essere qui. Ma cosa c'è in Italia? Invitare a Cruciani nelle tue programmi televisivi. No, non c'è pericolo, guarda. Non c'è pericolo, guarda, non ti preoccupare, Alì, dimmi. Allora che cazzo? Io alla Cruciani ti devo dare una notizia. Domani mattina questo uscirà sulla Repubblica, sul giornale, Corriere della Sera. Dimmi, nel mondo per la prima volta, accaduto in Calabria, dove i migranti positivi sono separati dai positivi italiani. Questo ti fa capire che la destra, insomma, fa sempre schifo. Ma non lo so, ma di cosa stai parlando? In Regione Calabria ha dato il bollettino dei positivi del coronavirus. Ah, tu dici, ha messo positivi stranieri e positivi italiani, evidenziando e sottolineando il numero dei migranti, i migranti positivi separati dagli altri positivi. E vabbè, normale, ma perché li stanno nei centri per immigrati, avrà messo quelli dei centri per immigrati, quello là, cioè, ma non è un razzismo. Uscirà uno scoop razzismo in Calabria, ma vattene, ma fermo là, fermo. Cari italiani, care italiane, buone notizie dal fronte economico. Ci ha pensato Nissan. Non aspettare ancora, agli incentivi ci pensa Nissan. Da oggi, se rottami o permuti il tuo vecchio veicolo, su Nissan Qashqai hai fino a 7.450 euro di incentivo fase 3 anziché 4.850. TAN 4,99, TAIC 6,11 con finanziamento iBuy, salvo approvazione Nissan finanziaria. Info e condizioni su nissan.it. Ti aspettiamo in concessionaria in tutta sicurezza. La Zanzara. Che squallore d'uomo che sei. Cruciani! Alla festa lì con Ciccio Formaggio, il puttaniere che va cinese. Mamma mia, che schifo. Ma quando ti guardi allo specchio non provi un senso di repulsione. Cruciani! Mamma mia, che schifo. Cruciani, non fare il grande, sei un servo di merda, servo. Cruciani, ancho culo e suca, salute Catanzaro, ancho culo. Menagramo d'un menagramo. Una domanda sola, una. Al presidente, è possibile? Fammela fare da Barbano. Barbano, come cazzo si chiama? Problemi suoi. Donna, ti piace de mia babà? È meraviglioso. Ma davvero viene chiusa questa trasmissione? Ma che spettacolo! Cazzo, ma io brindo e stappo una bottiglia costosa. Ma che meraviglia! Queste sì che sono belle notizie. Secondo me ci sono dei personaggi tramite i quali Parenzo proverebbe l'esperienza omosessuale. Uno di questi mi viene in mente il dottor De Benedetti, ingegner De Benedetti. E l'altro è il filantropo Soros. Io me lo immagino 90, che si fa inculare da questi due personaggi, ma con cordialità, con simpatia, cortesia e niente, l'inculata. Sì, sì, sì, sì, sì. Veramente, non credo. Mamma. No. Già, aspetta che c'è già l'avvocato. Sì, sì, sì, è stato appena commesso il reato. Esatto, pochi minuti fa e puoi già prendere il nastro e mandare tutto in procura direttamente. Grazie, ciao. Il nastro. Ecco, che l'avvocato era già. Informa avvertito. Anche De Benedetti e Soros per lo, all'occorrenza. Sì, sul telefono. All'occorrenza. Poi li fanno chiudere. Poi fanno chiudere per davvero. Ragazzi, una buona notizia finalmente. Nel periodo post-lockdown il prezzo medio delle prostitute è diminuito. Oh, finalmente. E le province che hanno subito la maggiore diminuzione, si sono avvantaggiate dalla maggiore diminuzione del prezzo delle prostitute sono Genova, meno 17%, Firenze, meno 12%, Napoli, meno 8%, Palermo, meno 6%, eccetera, eccetera. Purtroppo Milano, meno 3%, Roma sono aumentati 3%, Bologna 7% di aumento, Carrara 24%, ma che cazzo c'hanno a Carrara? Perché hanno aumentato i prezzi delle zoccole a Carrara? Bah, chissà. Paco, signor Paco da Belluno, il tuo amico Paco, Ciao Parenzo, un abbraccio a Parenzo. Ciao caro amico, ciao, grazie per quello che fai, per le tue testimonianze e per il tuo lavoro. E grazie lavoro per essere venuto in Italia. Lavora come tutti. Fa l'operaio. Lui si può dire davvero, lui lavora come un negro, questo si può davvero dire, perché lavora... Puoi dirlo, Parenzo. E poi in più fa anche il sindacalista, cioè difende i diritti dei lavoratori, ma quindi quale, è una persona davvero per difende? Bene. Non avrà prodotto un cazzo come certo. Sindacalista, non avrà fatto un cazzo. La mia azienda possono lamentarsi di me che rompi i coglioni ogni tanto, ma come lavoratore... No, penso. Ma non avrà fatto un cazzo come sindacalista. Vabbè, credo, ma Paco, cosa vuoi? Dimmi. Di essere delle persone hai che detto che mi vuoi sputare in faccia. Mi vuoi sputare in faccia, hai sì. detto. Allora, se tu credi che io chiamo alla Zanzara, sì. per dirti cosa? Io devo scaricarti la merda. Io non posso dire Cruciani. Quanto sei bello. Ma chi lo dice? Chi lo pretende? Schifoso. Ma chi lo dice? Spada di... sei schifoso. Ma perché? Che ho detto? Spada di fuoco. Non posso chiamare alla Zanzara. Questa è Spada di Fuoco. Per dire Cruciani. Questo qua è conosciuto come bravo. Spada di Fuoco. Invece sei una pippa, cazzo. Sì, ma di cosa stai parlando? Io, ma tu puoi dire quello che vuoi. La merda, ma sì, tu sei un fascistone. Ma su che cosa? Ma a proposito di che? A me dà fastidio sentirti dire che ti possono accusare di tutto. Certo. Fascista, razzista, ma tu vai a cena, sei onorato dalla cena dei fascisti. Cazzo. Ma quale sarebbe la cena dei fascisti? Spiegami. Ma sei fuori di testa. Ma chi? Formaggio? Chi? Formaggio? Non tu ho capito. Sei fascista di merda. Ma, fascisti, ma tu mi puoi dire. Tu sei onorato alla festa dei fascisti. Ma quale fascisti? Ma quali fascisti? Ma dove li vedi, sti fascisti? Ma vado d'accordo pure con te. Andiamo a cena, andrei d'accordo. Ma chi sarebbero i fascisti? Chi sarebbero? Tu, ma chi sarebbero? Uno ma... dei fascisti, sei tu. Vabbè, psicopatico. Sono fascista. Ma di che tu stai parlando? Ma tu è psicopatico di che? Allora, Paco, mi vuoi sputare in faccia perché ho detto, perché ho osato dare la notizia. È un modo di dire. Io non sputerò mai in faccia a nessuno. Io non sono capace a fare male a spada di fuoco. Io non ho mai messo mani. Ma l'hai detto. Sì, l'ho detto. Ma che cos'hai da rimproverare? Io non ho mai detto che i migranti portano. Ma i migranti, io non ho mai detto che i migranti portano il Covid. Ho detto semplicemente che trovo assurdo che in questo momento ci sono delle persone irregolari e dobbiamo anche pagare il trasporto, le cose, le cure, il Covid. Però succede così, che mamma cazzo dobbiamo mia. Fare? Non mi parla. Ma tu non paghi un cazzo. Tu paghi esatto. le tasse, le paghi. Tu non paghi niente. Vabbè, tu non paghi le tasse, tu, non tu, esatto. tu fai sempre la marchetta, cazzo. Sempre tu, la marchetta. Tu guadagni i soldi lei, bravo. No, questo ti porto via. È tutto. Probabile. È molto probabile. Ti porto via quel poco che hai, se hai molto probabile. Ti porto via tutto, ti porto via Paco, ti porto via tutto. Tu fai sempre la marchetta, cazzo. A chi la quanto ti ha dato Salvini? La Lega, quanto ti ha dato la Lega? Ma, esatto, rispondi, vedi che lo sa anche mi lui. Mi fa ridere perché hai preso dalla Lega? Ma ti porto via tutto. Ma che pezzo di merda, non prendo un euro da nessuno. Rispondi, ti porto via le mutande che hai, se ancora ce l'hai le mutande. Se non giri, perché secondo me giri anche senza mutande. Secondo me giri anche senza mutande, Paco. Ma neanche per sogno. Sì, vabbè, figuriamoci se metti le mutande. Ogni tanto costa spada di fuoco fuori che che ballonzola, questa spada di fuoco. Smettere. Dai. Tu devi smettere, noi abbiamo tutto il diritto di vivere in questo paese come italiani. Ma a parte che stai dicendo, ma tu sei italiano. Voi non potete sempre dire andate via, devono andare ma via. Ma chi ha questa detto? Ma tu puoi stare a dire che devono andare via, ma dove cazzo volete vado? Ma vai a parte che se mi pagano la casa me ne vado via. Io non sono in affitto, non sono in casa popolare, ho la mia casa, cazzo. Senti. Le regalo anche 26 anni di lavoro. Ma perché devi andare via dall'Italia? Mi pagano la casa, ma me chi ne vado te lo, via. Ma chi te lo chiede? Questo paese piano sta diventando invivibile con questo aspetto di merda fascista. Sì. Ma, ma questo è pazzo, ma che ma dice, ma che paese vedi, no. Uno gira tranquillamente, nessuno ti dice niente a te, ma che cazzo dici, puoi dire quello che vuoi che gli italiani sono dei pezzi di merda, che sono fascisti, ma non l'ho mai detto, non mi permetterò sì, mai ma di dire una roba sì, di ma vuoi di, hai ma detto ma come hai posso appena darti una notizia che è appena uscita, sarà contento Paco, Paco. E allora Paco, ascoltami, una notizia che ho appena letto sul Corriere.it. A Torino, Borghezio è stato scoperto a rubare documenti all'archivio di Stato. E lui dice: volevo solo fotocopiarli. Ma chi se ne frega? Ma sono cazzi di e Borghezio. Su questo cosa... non dici nulla. Ma cosa c'entra? Niente, dici, Paco, niente, cosa nulla. C'entra adesso? Te la prendi con gli immigrati? Zitto, fammi sentire. Ascolta qua. Tu non puoi dire una roba del genere. Ma a cosa? Me dà fastidio sentirti dire che ti possono accusare di tutto. Cruciani, prendi le tue responsabilità. Ma cazzo. Su che cosa responsabilità? Ma su che? Dichiarati fascista. Ma vai a cagare. Dichiarati fascista, pezzo di merda. Sì. Dichiarati fascista. Giusto. Tu sei un razzista di merda. Scusami, Paco. Ma tu che ne pensi del tu signor. Ma che ne pensi del signor Brasile, per esempio? Il signor brasiliano, che ne pensi? Io ti avevo anche proposto. Di ospitare il Brasile una settimana. Ma dove? A che fare? Per fare che? A casa mia. Perché? A che fare? Non ci vuole venire a casa tua il Brasile? No, ma perché lo voglio conoscere. Voglio stare con lui una settimana. Ma perché vuoi fare? Lo vuoi rieducare? Una settimana. Ma lo vuoi rieducare il signor Brasile? Che vuoi fare? Non ho capito. No, ma io lo ospito a casa. Passiamo una settimana e mi prendo una settimana di ferie. Ma perché vuoi ospitare? Perché vuoi ospitare il Brasile? Perché? No, ma perché voglio stare con lui. Ma che te ne frega del Brasile? Ma cosa vuol dire? Ma senti, spada di fuoco, pensa ad altre cose. Innanzitutto, perché dici che l'Italia sta morendo come paese, che stanno andando via tutti? Che cazzo dici? Vai via tu allora. Vai via tu se vuoi andare. Io non voglio andare via da questo. Allora, ma non rompere i coglioni, fermo allora, là. Come voi fascisti di merda? Ma non rompere il cazzo che ti porto in tribunale e ti tolgo via tutto. Ti porto via tutto per quello che dici. Ma smettila, porro fascista, io fascista. Ma tu sei malato di mente. Fermo là, fermo un attimo. I dati di sta minchia. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta La Zanzara. Eccolo. Lui tiene sulla trasmissione, da brava persona, ha preso quel taglio lì e va avanti così. Però non offende mai nessuno. Cruciani non offende mai nessuno. Tu sei un pezzo di merda. Tu sei il marchettaro. Giuseppe, ma voi non potete assolutamente chiudere se le sardine non sono ancora estinte. Cioè le sardine, questi stanno rialzando la testa. Stanno rialzando la testa e tu vuoi chiudere la trasmissione, ma sei pazzo. Cioè ci lasci con l'inferno in terra. Non ti permettere di chiudere finché le sardine non saranno sconfitte del tutto. Non ti permettere. David, ti ho visto in onda, hai fatto fisico e crocchè. Continua così che te lo fotti a Telese. No! Oh, intanto amico mio, c'è una persona, Paco, che ha due cose da dirti. Un ascoltatore che ha chiamato. Ci sei, Paco? Ci sei, Paco? Aspetta, Lucio da Pavia. Dai, Lucio, che hai da dire a Paco? Sì, ho da dire che Paco dovrebbe andare via da questo paese semplicemente per il fatto che sputa sul piatto dove ha mangiato. Giusto. E dove continua a mangiare. Quando mai? Giusto. Sei zitto un attimo. Ma come quando mai, mica? Tu sei nel paese che ti ha permesso di essere, di fare il sindacalista, di comprare una casa, di vantartene, e hai pure il coraggio di darci dei razzisti. tu sei solo un povero coglione, non si rende neanche conto di quello che dice. No, vabbè, ma tu non vuoi 5 minuti di gloria, tu vuoi 5 minuti di gloria. Certo, io non mi sono mai lamentato di Italia, anzi, ma come no, stai dicendo che un paese che è pieno di fascisti e c'è un pericolo. L'Italia mi ha cresciuto. Ma ho capito, ma stai dicendo, ma l'Italia mi ha cresciuto. Ma hai detto che è diventato un paese di pericolo, di fascisti, con i pericoli appena uscito. Ma che cazzo dici, dai? I fascisti sono sempre stati in Italia, solo che stanno crescendo. Ma che dici? Ma questa è una realtà, sì, uno. Ma quale realtà? Ma la realtà è... quando il sondaggio, il psicopatico a quando è? Sì, chi è il tuo psicopatico? Ma quale sondaggio che sei solo un utile idiota? Ma quale sondaggio che sei solo un utile idiota? Tu mi devi venire a dire quanta gente è venuta a manganellare alle tue porte per picchiarti perché sei di un altro paese. Al tuo paese la casa te la saresti fatta con i mattoni di fango. Ma come si permette? Sì. Tutti i fascisti ti chiamano, o di se tu li chiedi, o di chi voteresti, cosa dicono? Meloni o Salvini? Ma che c'entra? Cazzo. Ma cosa? Allora, se i fascisti non sono cresciuti, mi sono cresciuti i capelli che io sono pelato, cazzo. Beh, vabbè, allora Lucio, che dici, Lucio, dici? Vergognati, ti devi solo vergognare, che dovresti solo ringraziare dove sei, hai capito? Perché qui fascisti non ce ne sono. Beh, ci sarà qualche imbecille, quelli c'è, gli imbecilli ci sono, ma ci sei anche tu che ne fai parte, dall'altra parte però. Pago. Hai capito? Ma studia con il teatro, vuoi 5 minuti di gloria, io non te la do. Torna da dove che sei arrivato, pezzo di merda. Ma che c'è? Vai a fare il culo, vuoi solo 5 minuti di gloria, quello, non te lo do io. Ma quello ha chiamato per risponderti, che cazzo vuol dire? Non ha un cazzo a rispondere, questo vuole solo fare il fighetto. Ma vai a fare il culo, Lucio, non te lo do io. Lucio. Oh, stai zitto. Vabbè, ciao. Allora, Giuseppe da Torino, vai, forza. Dimmi Giuseppe. Dimmi Giuseppe, dimmi. Io ho due cose da dire molto semplici ma molto, molto forti. Premetto che sia tu che Parenzo mi state abbastanza sui coglioni, ma molto sinceramente. Nel senso è reciproco, reciproco. Io voi che chiama reciproco, guardi, non si stia a preoccupare. In genere, in una trasmissione normale, il conduttore, come dire, accarezza gli ascoltatori o i telespettatori. Cioè, se io dicessi ai telespettatori di in onda, no, mi fate siete schifo, non sarebbe bello, esatto, non sarebbe. Io invece qui lo voglio dire che chi chiama in questa trasmissione lo considero un poveretto, uno sciacallo e uno spostato, questo è. Giuseppe, io questo devo riconoscerlo grazie a voi, a Parenzo e a Cruciani. Ma che cosa? Non so cosa dire. Ma grazie, che ma tu sei completamente andato. Ma che cosa? Grazie cosa? Grazie al cazzo cosa? Grazie. Ma come grazie? Ma tu, Cruciani, ti rendi conto? Tu stai mettendo il dito nella piaga ogni giorno. Sì. Stai mettendo il dito nell'occhio del coglione tutti i giorni, e tu ma quale lo piaga? Sai perfettamente, e gli italiani ci cascano con tutte le scarpe. Ma cosa, gli italiani però? Sono un ammasso di coglioni, altro che fascisti, comunisti e così via. Siamo tutti dei coglioni. Ma cosa? Tu? Ma tu sei un coglione, tu sei un coglione. Ma tu sei un coglione, dillo, io sono un coglione, dillo Giuseppe. Ma io non ho nessun paura. Io non no, ho dillo, paura io personalmente sono un coglione. Io ammetto, coglione, sono molto meno coglione di te. Ciao. No, ma tu sei un coglione, dillo, confessalo. Te l'ho detto, se non sei, se oltretutto quello che ti sto dicendo non hai sentito, fatti una visita da uno Torino. Ah, io ho appena detto che sono un coglione. Ma come mai questa voce così in impastata? Ammetto di essere un coglione, ti sto dicendo che tu mi stai dando voce. Stai dando voce a tutti, sì, i coglioni non c'è come dubbio. Me, però scusami, e come te. Però ciao. Scusami Giuseppe, perché hai la voce così impastata? Hai una voce strana, impastata. Mi dispiace, non so cosa faccio. Ma che ne so, magari sei ubriaco. Dipende dalla linea, forse dipende dalla linea. Dalla linea dici, non è da qualche sostanza, no? Sostanze non no, io sostanze non ne prendo. Alcol? Io sono libero e sano. Alcol? Alcol? No, dico alcol, lo perché usi? Mi stai facendo una visita? No, alcol, no, ma stai una domanda, ma non puoi rispondere a una domanda. Alcol sì o no? Perché c'è gente, no. Qui passa di tutto in questa trasmissione, Parenzo lo sa, ma no? Ma che passi di tutto, non ti consenti di attribuirmi qualsiasi tipo ma di... Ma no, ma è una domanda! È non una... sei nessuno tu per dire a me se io assumo alcol oppure no. Ma non c'è mai, lo chiedo, lo rispondo al mio medico, ma non a te. Ma quello d'accordo, però sto dicendo una cosa, io ti chiedo, alcol. Ma io ti rispetto, io ti amo. Niente, mi ami, anch'io ti amo. Anch'io ti amo, Giuseppe. Ciao, ti amo. Ti bacerei anche in bocca con la lingua. Sai, se no, fosse... no, non esageriamo. Ma un bacio in bocca con la lingua ci può stare. Mi dispiace, mi fa schifo. Sono un eterosessuale. Non sopporti più gay. O meno... Non sopporti gay. Non sopporti, ho capito. No, l'hai detto. Hai detto che non sopporti gay. L'hai detto, no, ma non l'hai c'è. Detto tu, l'hai detto no, tu. Hai detto non che ti stanno sui coglioni gay. Devi smettere di fare il coglione. Ti stanno sulle palle i gay. Ti attribuirmi delle cose. Ti stanno sulle palle i gay. Tutti stanno sulle palle. Ti stanno sulle palle i gay. Dillo, dillo. A me sì. Ti stanno sulle palle quelli che come te cercano di attribuirmi delle affermazioni. Ti fanno schifo i gay, ti fanno schifo, mi pare chiaro, ti fanno schifo i gay, hai detto bacio sulla bocca, no per carità io sono etero, è una chiara espressione, una chiara diciamo una chiara non frase che ti fa capire mio. Che ti fa schifo il gay, non l'omosessuale. È affar mio, lo stai dicendo tu, non mi attribuire affermazioni che io non ho neanche guarda assurato. Se fossi, se sei stronzo sono cazzi tuoi, caro Giuseppe, qui c'è, potrebbe scattare la legge sull'omofobia, hai detto una cosa che potrebbe essere da ma tribunale, ma se sei capace di farlo. No, io sono ci penserà l'associazione. Perché a me l'eterofobia mi fa più paura dell'omofobia. Ecco, però vedi. In che se senso? Devo dirti di in più, io senso? Non ho mai avuto nessun tipo di divergenza, di difficoltà. Ma che vuol dire eterofobia? Che tu mi hai appena attribuito. Ma che vuol dire l'eterofobia? Che vuol dire l'eterofobia? Che cos'è l'eterofobia? Che cos'è? Che allora, cos'è? Parenzo, intervieni anche tu, ma perché questa qua è una discussione importante con Giuseppe da Torino, allora, trovi, o pensi che sia uno spostato e basta? Dillo. Io credo che questo signore qui, non solo il fatto che sia uno spostato non c'è dubbio, perché dico che è uno spostato? Perché chiama alla zanzara. Non ho altre domande, vostro onore. Cioè il fatto stesso che questo signore non ascolti la trasmissione, distinzione fondamentale, io rispetto chi l'ascolta, quei 2 milioni o quanti che ascoltano, no, 10, 20, 30. Chi chiama è un coglione. Lui ha detto, l'ha ammesso però Giuseppe. Io ho appena detto. L'ha appena detto, l'ha ammesso. Ma io infatti per questo ho messo la cuginneria a favore di Parenzo. E hai anche ammesso di odiare i gay, hai ammesso di non sopportare. Questo non l'ho mai detto. L'hai detto. Questo non l'ho mai detto. L'hai detto, vergognati. Non puoi fare il furbo. Devi vergognati. Formazione di una certa proporzione. Non mi prendere per il culo. Vergognati. Quelli come Parenzo o quelli che ti servono dandoti del cretino o dandoti del ciao cretino. ciao il professor Zangrillo continua a dirmi tachipirigna. Francesco da Vienna, vai Francesco, forza Francesco. Ok Giuseppe, guarda, discorso David Pancia, sì, ah bene, devi spronarmi, sì, perché ti spiego, io sono un personal coach. Oh, ottimo, personal coach. Ma lui c'ha lo stesso di Casalino, per cui lui ha in comune in ricomposizioni corporee. Addirittura, esperto di ricomposizioni corporee. Che cazzo vuol dire? Ma chi? Lui, questo Francesco da Vienna. Io lavoro con giovani professionisti, giovani uomini, giovani donne che ricomposizione diciamo, corporea, però bene, adesso Parenzo non è che ha bisogno di una ricomposizione per no, corporea, ha bisogno di mondo, è inteso nel senso abbassare il grasso e aumentare un pochino ma i muscoli. Non c'è nessun grasso. Beh, insomma, nella sua adesso. Testa no, non no, c'è nessun grasso. Allora, io ti sono visto. Aspetta, io, Francesco, no, dico, guarda, allora, io sono un professionista. Esatto, lo vede in televisione. Un professionista non telefona alla zanzara, un professionista. Una sfida da proporre. Dimmi Francesco, qual è la sfida? Dimmi, qual è la sfida? Allora, dimmi. Questa è la sfida, ti sì, spiego. Sì. L'unico fattore che sì, determina se una dieta sarà di successo o meno sì, è l'aderenza. L'aderenza, che cazzo vuol dire l'aderenza, scusa? Nel senso, la costanza, se uno riesce a finire la dieta o meno. Vabbè, ma grazie a cazzo, se uno dimagrisce, no, numero uno. No, se uno dimagrisce senza morire, diciamo, no, senza crepare, questo sì. Questo No, perché la maggior parte delle persone inizia la dieta ma non la finisce. Vabbè, sì, la continuità, tu okay, dici, la costanza, esatto, sì, la continuità. Vabbè, allora? Per promuovere questa cosa qua, l'unica cosa che ti permette di, quando hai fame, dire, ok, no, sto a dieta. O per dire rinunciare allo spritz sì, la domenica. È se hai pagato qualcuno. Cioè tu dici io mi faccio pagare da David, però gli prometto che altrimenti gli dai indietro i soldi. Qual aspetta, è la storia? Ti spiego. Siccome David deve perdere diciamo 5 kg, 5 kg è sicuro che in 3 mesi li perde. Dai, sì, secondo me tra i 5 e 10 kg. Ti sto facendo una proposta. Questo è anche un personal trainer. Io mi confronto con i migliori professionisti al mondo. Ti ho visto in televisione tra i 5 e i 10. Tu non puoi andare in palestra a spendere 50 euro, 100 euro una volta e puoi vedere il personal trainer quando ti pare. Te devi dire, ok, metto lì 1.000-2.000 euro. Quanto costi tu? Sì. Quanto costi? No, no, io non parlo di prezzi previa consultazione. Però ma che diciamo, cazzo vuoi? 1.000-2.000 euro, sto benissimo, per 12 settimane. Sto, ma che, ma okay, dico, tu dici in 3 mesi lo faccio dimagrire 10 kg, tu mi paghi e casomai mi ridai i soldi, giusto? Se dimagrisce. Se rispetta l'obiettivo, lo diciamo adesso, quindi vabbè, allora dobbiamo parlare con David quando deve perdere, però diciamo 5 kg, 10 kg, ok, se perde 10 kg io gli do dietro i soldi. Se perde 5? Se lui sgarra. Se perde 5? No, vabbè, no, no, no, diciamo o 10 o niente. O se 10 perde 10 kg o più, ok, io gli do dietro i soldi. 10 kg, questo ti vuole far perdere invece 33 kg preso quel punto. Siccome io ho un ottimo sistema di supporto. Vabbè, allora vai al sodo, Francesco, dovrei... forza. Allora... Okay. David, se sgarra, ci perde i soldi. Vabbè. Però, David, ci puoi solo vincere, perché o perdi 10 kg o riprendi dietro i soldi, nel senso una scommessa. Ciao, Francesco, ciao. A vuoto, ciao, ciao, ciao, ciao. La zanzara. Allora, io mi voglio impegnare, caro David, a trovare prima o poi un fidanzato alla signora Daniela Martani. Cioè, mi voglio impegnare, cioè mi ci voglio mettere di punta. Ma perché? Perché sì, mi ci voglio mettere di punta. Perché secondo me ha bisogno, dopo un po', non è possibile che uno va avanti così senza scopare, senza fare nulla. Daniela, ci sei o no? Sì, ci sono. Ecco, mi voglio impegnare a trovare un fidanzato. Allora, diciamo subito che questo fidanzato deve essere fidanzato, insomma, diciamo, vegano o tendente al vegano. Vogliamo mettere in chiaro una cosa, tendente al vegano. Sì. E non deve essere troppo fissato col sesso, va bene questa cosa qua? Cioè, non deve essere proprio uno che sta là, no. Deve essere uno, da questo punto di vista, anche un po' monacale. Uno che pensa... Ma no, ma non è che deve essere monacale. A me interessa, sì. A me interessano altre cose. Ti interessano altre cose, infatti. Interessa che gli interessi altre cose. D'accordo, benissimo. Infatti, capito? Ho detto uno non troppo fissato col sesso, cioè non uno di quelli, non uno di quelli che vuole scopare ogni giorno. Adesso diciamo la verità. Cioè, esatto, uno che ha una certa moderazione, due volte a settimana, però non è quello proprio che ha la fissazione. Per esempio, uno che guarda YouPorn o Pornhub ogni giorno, tu non lo vorresti? Assolutamente no. Mentre un uomo poetico, un uomo poetico. Non è che i poeti e gli artisti guardano, stanno su Pornhub ogni giorno a farsi le seghe. Cioè, uno nell'animo. Uno che si fa una sega davanti a Pornhub, ti ci metteresti? Uno che si fa una sega davanti a Pornhub, ti fa schifo. Lo vedi? Perché tanto poi se mi ci metto appena esco di casa, ti mette davanti a Pornhub. Restringiamo il campo, lo vedi che si restringe il campo alla fine? Allora, uno che non si fa le seghe, no, ma giusto, è giusto, è giusto. Allora, uno tendente al vegano, uno che non si fa le seghe su Pornhub, già restringiamo molto il campo, ragazzi. Cioè, uno che non si fa le seghe su Pornhub, uno tendente al vegano, ragazzi, bisogna andare col lumicino là perché la gente mangia la carne. E se guarda i film porno la maggior parte. Ma ci sono tantissimi vegani e vegetariani in Italia, siamo 7 milioni. Ho capito, 7 milioni uomini e donne, e poi ci sono però questi, tra questi ci sarà pure qualche porco che si guarda Pornhub e se fa una sega. Dunque si restringe ancora di più. E poi tendenzialmente vegani o comunque gli animalisti sono anche molto profondi come persone. Ah, cioè sono meno perversi, dici te, sono meno perversi. Meno perversi, è un'altra cazzata. Tendenzialmente parlo essendo anche meno violenti, diciamo, sessualmente, sono anche più dolci nel sesso, tu dici, no? Non avendo quella rabbia in corpo, esatto, che viene dall'assunzione di carne. Poi sono più efficienti, poi scremiamo ancora. Uno che non sia leghista, diciamo, lo possiamo dire, uno che non sia leghista e non sia questo, sì, non ti ci metteresti mai. Che non sia leghista sicuramente. Ecco, appunto, restringiamo ancora. Però qualsiasi cosa che riguardi gli animali, violenza contro gli animali, sono pro a tutto, pro caccia, pro allevamenti. Appunto, vedi, dunque già restringiamo. Negli zoo, pro tutto. Però non è che quelli del PD siano diversi. Vabbè, comunque, vabbè, restringiamo ancora. C'è uno tendente al vegano, che non si guarda i film porno, leghista, non leghista, disposto a dormire con un cane nel letto, mi sembra di capire. Disposto ad accettare. Ma lo vedi che ma si arriva a zero. Il risultato è zero alla fine. Ma che zero? Ma non ci può essere. Uno così, te. Ma non ci può essere uno così, restringiamo perché non esiste, ripeto, tendente al vegano. Tendente al vegano. Praticamente... Ma soprattutto chi se la prende sta scassa cazzi? Parliamoci chiaramente, ragazzi, amici miei. Sarà pure carino. Sarà pure. No, tu non ti preoccupare. Sarà pure è carina, ma poveretta, un corno, poveretta, un corno. Almeno non mi scassa le balle tutti i giorni. Mangia quello, mangia quello. No, questo no, la carne no. Ma non rompere le palle. Ma io dico, ma questa mezza matta, ma chi se la porta in casa sta mezza matta? Ma sta mezza, ma sta Santippe qua. Ma chi la vuole sta Santippe qua? Dai, ma tanta tua moglie, poverina. Ma di che parliamo? E sta sempre in giro col cane, manco se lava. Ma di che parliamo? No, quello si lava, ti posso dire, secondo me. Ma che se lava? È pure carina, è indubbiamente una ragazza, anche se sarebbe carina. C'ha i capelli sporchi. No, c'ha, ma non è vero, non c'ha i capelli sporchi, non è vero. C'ha, no, il cane, no, che lo porta in giro. È una mezza stracciacazzi. Ma di che parliamo, ragazzi? No, devo dire che hai i piedi. E non mangia la carne, non mangia la carne, non mangia la carne. No, non ho capito, ma penso, te lo tieni per quale motivo, Cruciani, in trasmissione? Per fare il clown, cioè, non capisco la... Devo dire che hai... Devo dire che hai i piedi, devo dire che hai i piedi tra i, tra i top ten che ho visto fino adesso. I piedi sono tra i top ten, il culo pure, però il resto poi si può dire. Ma a me sta anche simpatica. Questo non è sessismo. Se uno dice che i piedi sono belli e c'ha un bel culo, non è che uno è sessista, anche là, fa un'offesa. Dice una cosa reale, punto e basta. Però volevo capire una cosa. La Martani si è, ultimamente, caro Parenzo, questa cosa ti farà imbufalire, si è esposta molto sulla, sulla questione del coronavirus, del Covid. Cosa ha detto? Ha postato un sacco di feste, lasciateci vivere, feste dove il distanziamento sociale non esiste, e io su questa cosa qui sono dalla parte sua, sono libertà, esatto. Diglielo a Parenzo che invece ci vuole ancora tutti prigionieri ci vuole, David, e dai, su. Esatto, allora io sono sempre uscita anche durante il periodo lockdown, comunque col cane ci vuole. No, ma adesso vai alle feste e te ne sbatti i coglioni, vai ai party. Da quando è stato, diciamo, dichiarato, insomma, la terza fase, sono sempre andata a feste, tutti i giorni, sempre in piazza, anche se vai a distanziamento sociale, non te ne frega un cazzo. Non esiste proprio, no. Capito, David? Se ne sbatti i coglioni, di qualcosa. Esattamente. Ma cosa vuoi? Ma no, allora cosa scusami, allora, siccome io lo provo, io voglio provare sulla mia pelle se è vero quello che dicono, poi alla fine, no? Cioè, che io cosa? Voglio ricominciare a vivere, quindi non mantenendo il distanziamento sociale, per vedere se veramente è come dicono loro. Mascherina, cioè, zero, mascherina zero. Mascherina praticamente soltanto quando devo entrare nei locali, nei posti al chiuso, ma se no io non la metto mai, non mi sanifico le mani, non mi tolgo le scarpe quando entro dentro casa, non ho praticamente quasi mai seguito nessuna delle... E tu pensi anche che sia stata una grande balla? E tu pensi anche che sia stata una grande balla? Allora io non penso che sia una balla, io penso che sia una balla clamorosa questa bombardamento mediatico che stanno facendo veramente e Parenzo è responsabile. Parenzo oggi anche Parenzo è responsabile. È il primo, uno dei primi responsabili. Che cosa? Io non ho capito per quale motivo ci sono medici con i controcoglioni, scusami, che dicono che l'emergenza è finita da 2 mesi, che non ci sono più malati in terapia intensiva e non vengono ascoltati, e invece c'è questa famosa task force di cui non sappiamo i nomi, chi sono, poi tra l'altro, ma chi sono? No, chi sono rappresentanti, i rappresentanti di questa, che continuano invece a mettere l'ansia alla gente. Sì, però tu dici un'altra, tu hai detto un'altra cosa l'altro giorno, che i carnisti diventeranno degli zombie, insomma, come cazzo si fa? Dai, certo, su. Scusami, non ho letto il caso di quel ragazzo che ha mangiato la marmotta in Mongolia, è morto di peste bubonica, voi continuate a mangiare la carne, e questi sono i risultati. Guarda di quelle, chi mangia la marmotta? La gente normale non mangia marmotte. Sono le occhiaie, cioè, sei scavato, sei diventato uno zombie pure te a forza di mangiare la carne. Ma che sei scema, sei zombie? Ormai c'ha i buchi neri al posto degli occhi, cioè, ma non lo vedi? Ma mica perché mangiamo la carne, ognuno c'ha i suoi cazzi. Ma guarda che la carne è responsabile della diffusione. C'ho le occhiaie perché sono stanco, ma sono stanco di sentire stronzate. Questi medici, tra l'altro, che parlano tanto di Covid, ma tu li hai mai sentiti parlare di prevenzione, di sistema immunitario? Nessuno. Scusami un attimo una cosa, Parenzo, per concludere questa cosa qua, io volevo semplicemente sottoporti questa domanda. Se tu fossi un uomo all'ascolto in questo momento, che ha alcune delle caratteristiche enunciate dalla Martani, cioè dire tendente al vegano, magari qualche pippa su Pornhub, ma disposto a redimersi, un po' leghista però pentito, è disposto a dormire con un gatto, con un cane, sì, proprio come ultima istanza, secondo te si avvicinerebbe alla Martani o no, dopo aver sentito queste cose? Piuttosto uno si taglia i coglioni, ti assicuro, perché l'idea di avere un... No, io ti dico una cosa, io detesto quelle fidanzate che avevano, ad esempio, mi mi è capitato qualche volta, che avevano i gatti in casa, che tu eri lì a letto e ti saltavano sul letto. Vaffanculo, io voglio dormire e non voglio avere animali che saltano sul letto. L'animale dorme da animale, l'animale dorme, l'animale dorme nel posto deputato per gli animali, gli uomini dormono sui letti. Non ci sono cani, gatti, tartarughe, tartarughe, cariceti, cariceti, pesciolini rossi che dormono nella stanza. Il pitbull ammazzato dal poliziotto, che faresti al poliziotto? Dimmi subito questo, che faresti a quel poliziotto? Io, se fosse stato il mio cane, penso che non sarebbe stato vivo, cioè, il poliziotto. Non esiste proprio. Il poliziotto. Assolutamente. Ma che stai scherzando, che parli e spari al mio cane, per quale motivo? Cioè, ma come spari al mio cane? Quello ha aggredito il poliziotto, ha aggredito un cane. Ha aggredito, tant'è che è stato rinviato a giudizio, non è vero? Non purtroppo, purtroppo, hanno purtroppo. Fatto i video, che no, non sarebbe stato, cioè, non esiste proprio, che prendi e spari a un animale soltanto perché ti tiene che sia un animale pericoloso quando non aveva fatto assolutamente nulla. In tribunale ha stabilito infatti che ha sbagliato ed è stato rinviato a giudizio, e io spero che venga condannato con una pena un poliziotto basta, un poliziotto non me ne frega niente che un poliziotto, ma stava difendendo un suo collega, anzi, ma che cosa sta dicendo? Ci sono i video, Cruciani, ma che video, ma che vuol dire? Ha sparato un, ma come no, ha aggredito il suo, non aveva aggredito nessuno, tant'è che infatti è rinviato a giudizio. Comunque basta, perché la legge italiana deve cambiare assolutamente, già... perché gli animali devono essere considerati essere senzienti e non oggetti. Ma quale essere senziente ancora con sta cazzata? Nessuno quando ma meno male l'animale. Ma figuriamoci. Quindi a quel punto farsi giustizia da soli. Visto come farci giustizia? Legge, che vuol dire farci giustizia? I diritti degli animali. E che vuol dire? Farsi giustizia che vuol dire? Che se tutto al torcio un capello al mio animale, visto che non sono tutelata, questi qua non vanno mai in galera. Non e dunque che devi fare? Il proprietario del pitbull dovrebbe ammazzare il poliziotto. Dovrebbe ammazzare il poliziotto. Non ho capito. Sicuramente le mani addosso. Ma questa cosa pazzo. Non ci piove. Poi ciao. Vediamo. Poi ciao. Vediamo quello che succede. Ciao, ciao. La zanzara. Però ragazzi, questo che dice fanculo l'Italia, fanculo la polizia, ammazzo i carabinieri, mi scopo Giusy Ferreri. Parla di violenza, parla di stupri, parla di pompini, parla di ingoio, parla di troie. Parla di violenza, parla di stupri, parla di pompini, parla di ingoio, parla di troie. Amico mio! Parla di troie. Fanculo l'Italia, fanculo la polizia, ammazzo i carabinieri, mi scopo Giusy Ferreri. Fanculo l'Italia, fanculo la polizia, ammazzo i carabinieri, mi scopo Giusy Ferreri. Amico mio! Mi scopo Giusy Ferreri. Grandissimo Yuri, vaffanculo brigante lucano, camionista di merda, siete sempre in mezzo ai coglioni a rompere il cazzo, il 99% degli incidenti in autostrada è sempre colpa vostra, che cazzo vi sorpassate con uno che va a 80 e l'altro che va a 82, ma vaffanculo, grande Yuri, vaffanculo camionista di merda. Questo è un coglione di quelli che cammina nella corsia centrale per 400 chilometri e sta col telefono in mano a farsi i cazzi suoi e a rompere il cazzo a chi lavora, sicuro sicuro, sta merda, Matteo, ciao! Caro Parenzo, come già abbiamo sentito, la reazione è stata forte dei camionisti. La reazione è stata fortissima. Però devo dire che un po' di ragioni i camionisti ce l'hanno. Cioè, se uno si mette davanti a un camion di gente che sta lavorando, andando deliberatamente a 60 all'ora, 70, per impedire la circolazione del camion, questi qua qualche ragione ce l'hanno, perché c'è gente che lo fa apposta. Ma a me dà molto fastidio quando ad esempio c'ho il camion dietro che mi suona con quel trombone tu ti ricordi quel trombone il camion quando qualcuno di questi camionisti mi suona, io deliberatamente rallento. Ma veramente stai dicendo? Perché ti ricorda perché uno di quello che chiama la zanzara, Carlo. Carlo il fascista, com'è quel clacson del camion? Lo senti il camion? Com'è? Lo senti, lo senti. senti il clacson? Io quando sento uno di quelli che mi fa eccolo qua. Quando sento così, io deliberatamente rallento. Magari sto andando a 70, vado a 40. 70, stai andando a 120, no, a 70. Ti faccio sentire. Col cazzo, rallento. E se puoi, superi. Se hai la doppia linea continua, non puoi superare. E se mi superi con la doppia linea continua, abbasso il finestrino, tiro fuori la mano e improvvisamente alzo verso il cielo il mio dito medio. Ancora, guarda che è pericoloso. Con alcuni è molto pericoloso. Tu sei un neofita della guida alla fine. Senti il camion. Come fa? È trombe, come fa? Cioè, tu, a te proprio questo qua ti sta sui coglioni. Cioè, proprio ti, ogni volta che vedi un camionista dietro, ti ricordi immediatamente di Carlo da Roma. Vabbè, ti faccio ascoltare una cosa. Te lo ricordi il protagonista della vicenda di Povia? No. Quello che era gay e poi non era più gay? Ah, sì, certo. Te lo ricordi? No. Te lo ricordi o no? Luca di Tolve. Senti, come mette in Luca collegamento. Era gay, ma adesso sta con lei. Esatto, sì, bravo. Questo qua una delle canzoni più idiote della musica leggera italiana. Non esagerare. Il fatto stesso che te lo ricordi significa che qualche traccia l'ha lasciata. Ma che poi non, ho scoperto che non parla di Telese. Io pensavo parlasse di Luca Telese. No, ma Telese non era gay. Scusa, ma che cazzo dici? No, appunto, ho detto. Infatti, io fossi in Telese, farei una querela a Povia assolutamente. Tutti quelli che si chiamano Luca adesso dicono, ci sono milioni di Luca in Italia. In particolare Telese. Io fossi, adesso non voglio dirlo, ma fossi Luca Telese, pure in farei cose querela subito. Querela. Allora, querela. Luca di Tolve ha cominciato poi a scrivere libri, militante, diciamo così, della famiglia anti-gay, eccetera, anti-unioni civili. Questo qua mette in collegamento la pedofilia con l'omofobia. Tutto un pasticcio, sempre con sti pedofili. Nessuno è a favore dei pedofili nel mondo. Nessuno vuole sdoganare la pedofilia. Sentiamo. Come la pedofilia è stata tirata via dal manuale diagnostico come patologia, ma è diventato un orientamento. Ma chi la tira? Sì, anche guarda, chi dice che qualcuno potrebbe darci dell'omofobo perché noi discriminiamo un pedofilo solo perché a lui piacciono i bambini. Questa cosa è farfariscosa. Mi batto per la libertà. Ma cosa? Ma di che parli? Cioè, se tu parli male della pedofilia, nessuno ti accuserà di questo è pazzo, ragazzi. Qui c'è una follia. Intanto, questa me l'ero persa. Capezzone contro Mughini. Questo non potevo non mettertelo, David. Non potevo non mettertelo. Capezzone Mughini. Mughini fin troppo calmo per Capezzone. Senti. Scusate, questo è un governo che non ha azzeccato la strategia economica, non ha azzeccato la strategia sanitaria, ci ha chiuso tutti quanti in casa, ora abbiamo, prevede l'Istat, il 40% delle imprese a rischio di chiusura e stiamo pure qui a farci la morale, a dire che noi che critichiamo il governo. Ed è tutta colpa del governo. Non è tutta colpa del governo, ma è un pezzo grande di colpa del governo. Dio sa, senti da sotto, Dio santo. Voglio ricordare però al mio amico Daniele che l'Inghilterra ha una situazione, una storia, un'economia, una silhouette generale che non è quella di un paese col 160% del debito. Avevate detto che andava in rovina causa Brexit. Scusa, ci avete fatto una testa così dicendo che con Brexit sarebbe stato un disastro e noi vi dicevamo. Beh, adesso vedremo, adesso mangiamo gli italiani per farvi contenti. Ha detto Mughini la silhouette, ha detto la silhouette. Senti ancora, senti la silhouette. Adesso se fra 2000 anni qualcuno vedrà questa trasmissione e sentirà parlare il mio amico Daniele Capezzone del governo italiano, penserà: ma chi c'era in Italia? Quali barbari c'erano al governo in Italia? Quali mostri? No, quali c'erano uomini? Cattivi governi anche prima. Eccoci qua, Massimo da Genova, avanti tutta. Massimo, dimmi. Capezzone. Ciao, volevo solo rispondere a quel Yuri di Brescia che ha chiamato ieri. Sei un camionista? Sì, dimmi. Che, allora, io non credo che lui faccia queste cose veramente. No, lo fa, lo fa. Parenzo lo fa, per esempio. Parenzo l'ha appena detto che lo fa. Ogni tanto rallenta apposta. Ogni tanto rallenta apposta. Che l'ha detto? Eccolo qua. Ce l'hai qui davanti. Dimmi. In ogni caso, Parenzo, Yuri, adesso non voglio entrare nel merito della questione. se fanno veramente così sono, non hanno capito un cazzo, perché comunque non considerano il fatto che per fare un sorpasso, al di là del fatto che lui dice se uno va a 80 l'altro a 79 non cambia, no, cambia, come, perché la tolleranza sono 8 km, quindi 80 il limite massimo che uno, ragazzi, può percorrere in autostrada. Allora, posso dire una cosa, chi vuole bloccare i camionisti facendolo apposta perché non vuole i sorpassi eccetera eccetera, se uno sbaglia paga, i camionisti se sbagliano pagano, gli automobilisti se sbagliano pagano, punto. Se uno lo fa apposta, giustamente quelli che devono lavorare si incazzano come bestie, non è difficile. Ma sì, ma è un coglione. Giovanni da Salerno, vai, Giovanni da Salerno, vai. Dimmi, Giovanni. Cruciani, mi senti? Sì, ti sento, dimmi, dimmi. Allora, Cruciani, io volevo intervenire a proposito della faccenda del cane del poliziotto. Allora? Allora, io ti dico tre cose. Uno, fondamentalmente, sì. Io sono un Crucianano doc, sono il tuo fratello gemello, se non fosse per le stronzate che dici quando parli degli animali. Cruciano, ma che vuoi dire sul cane? Non no, ho capito. Allora, voglio dire questo. Allora, noi innanzitutto abbiamo una responsabilità verso gli animali e il poliziotto ha sparato quel cane la seconda volta, il cane è inoffensivo, quindi il poliziotto è stato un sadico. È stato ma quale sadico? Ma non rompete i coglioni, ma non romp- ma che espulso, ma non rompete i coglioni ai poliziotti che fanno il loro mestiere, ma non c'entra un cazzo in questo caso, ma un violento perché? Ma che ne sa quello? Ma che ne sa quello? Che tra le altre cose è anche una grandissima gnocca, su queste cose tu questo, vabbè, Munir Macerata, vai, Munir Macerata, chi è sto Munir, vai Munir, dimmi. Grandi, Cruciani? Dimmi, se senti bene, non mi cominci a fare quelle cose che non si sente Bluetooth. No, ti sento, ma dimmi. Ma mi dimmi. Spieghi come hai fatto a dire che 13 persone morte non è niente? Cioè, ma tu ce l'hai un cuore, ce l'hai un ma familiare, questo parla amici, come, lo come Vissani parla, no, come ma Vissani, è di Macerata questo. Che c'entra Vissani è tutto un altro accento, bravo, non hai capito un cazzo, bravo, però scusami Munir, a parte che Munir che cazzo di nome è Munir, scusa spiegami, cioè... Munir di origini marocchine, ah sei pure di origini marocchine, non sto scherzando, oltre che di Macerata pure di origini marocchine, cioè facciamo pure un mix di linguaggi marocchine. Però a parte questo Munir, scusami, io non ho detto che 13 è un successo, certo sono pochi rispetto ai morti di prima, sono pochi, è chiaro, no, cioè avere pochi morti, quelli che stanno in terapia intensiva, qualcuno purtroppo morirà. Il numero di 13 morti al giorno, che era un dato di non mi ricordo di quando, di lunedì, di martedì, non ricordo. Lunedì. Benissimo, è un successo. Cioè, no, è un chiaro, successo. Ma certo. Ho capito che è un successo, ma tu non puoi dire non è niente. Certo non che non niente, è niente, non è nulla rispetto a quello che succede altrove, rispetto a quello che era prima la situazione. È evidente che è poco. Ma 13 persone valgono a una persona, ma grazie o a al cazzo. Persone. A parte che bisogna vedere di che cosa stanno morendo in questo momento. E poi grazie al cazzo, è evidente che una morte bisognerebbe evitarla sempre. Ma purtroppo ti avverto che le persone muoiono però. Normalmente ci sono un sacco di morti per svariate patologie. Tu non devi dire non fa niente. Tu io non dico devi il cazzo dire, che mi pare. Niente. Io dico no, il cazzo che mi pare. Non devi dire il cazzo che ti pare. Certo che dico il cazzo. E chi se ne frega? Tu, chi da se ne frega? Tu dovresti dire alla pace di queste persone. Sì, faccio pure una preghiera, magari. Faccio pure una preghiera, magari. No, fai mi metto lì a fare. Che farei ma va, fa culo, perché va. Fai proprio schifo. Ma sei uno schifoso ma quando ti comporti. Ma questo è un poveraccio. Munir è proprio un poveraccio. Ma sei un poveraccio. Ma sei un poveraccio, sei un disgraziato. Ma, guarda, Crucia, fai proprio schifo. Sei per proprio... fortuna Parenzo. Ma per sei proprio un disgraziato. Ma Parenzo è quello. Grazie per aver chiamato. Grazie per aver chiamato. Grazie per aver chiamato. Magari si scopre che è pure un puttaniere questo qua. Dunque ma devi, non me ne frega niente, a me le puttane, le travestiti, che lecchi i piedi, che non te fai la doccia, a me non me ne frega niente, ma non dica che i morti non sono niente, 13 morti, ma non certo sono niente. Certo che non sono niente, era un paragone con quello niente. Che c'era ma prima, cagare, poveraccio. Vai a cagare, Renato, vai a cagare. Renato, provincia di Mantova, dai Renato, vai a cagare, dimmi. Vai a cagare. Dimmi Renato, dimmi. Renato, a proposito, buonasera. Sera, buonasera, dimmi, dimmi. Sono costretto a dire buonasera perché sennò la manderei a fare in culo. Buonasera, dimmi, buonasera, avanti, dimmi. Grazie, sempre gentile. Volevo dire a proposito del cane che quindi c'è da precisare una cosa. Il poliziotto sicuramente non lo invidio perché ha visto la magistratura, non sarei tranquillissimo. Comunque la magistratura indagherà, però qui la prima vittima è il cane. Ah, la prima vittima è colpa di essere la prima colpa di cane. Essere la prima vittima il cane, la prima vittima è ha la colpa il di essere il cane di un delinquente. Vabbè, ma questo che c'è? Beh, ma lui non lo sa, ma lui non lo sa perché non è che esatto. Sa di essere Ho capito, esatto. Ragazzi, ancora con sto cane. Quindi, è morto, esatto, un cane, pazienza. Andiamo avanti, non è un essere umano, non è come la morte di un essere umano. Ma voi siete pazzi, voi siete pazzi. A proposito degli animali, vorrei, siccome lei sottolinea sempre che si tratta di essere inferiori agli uomini, certo, allora, assolutamente. Inferiori significa deboli, con i deboli non bisogna prendere. E infatti, infatti i cani, ecco, vengono protetti al massimo livello da noi. Ci sono le leggi, purtroppo. Ma come no? Ci sono le leggi contro il maltrattamento. No, però, si mette i fiocchetti ai cani, si dà il gelato ai cani. Ma che cazzo dite, ragazzi? Nel mondo di oggi, nella società occidentale, i cani sono protetti dalle leggi più forti che ci sono, purtroppo, contro il maltrattamento. Purtroppo il cane ha la colpa di essere stato il cane di un delinquente il quale se ne è servito come uno strumento per difendersi da poliziotto. Poi ciao, fermo, ciao, ciao, ciao, ciao, Renà, ciao, ciao. Hai un libretto smart? Allora rendi i tuoi risparmi dei super risparmi. Attiva online l'offerta Super Smart Premium Digital 150 giorni. E se non ho il libretto smart? È facile. Prima ne apri uno, prima attivi l'offerta. E a scadenza riceverai un tasso di interesse vantaggioso sulla nuova liquidità accantonata sul libretto smart. Puoi farlo solo online su poste.it o da app BancoPosta. Più comodo di così. I buoni e libretti di cassa depositi e prestiti li trovi solo da Poste Italiane. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. I libretti di risparmio postale sono emessi da Cassa Depositi e Prestiti, distribuiti da Poste Italiane e sono assistiti dalla garanzia dello Stato. Per le condizioni economiche, contrattuali, fiscali e le limitazioni, consulta i fogli informativi disponibili presso gli uffici postali su poste.it e cdp.it. La Zanzara. Oh, grande Cruciani, anche tu mi hai aiutato a smettere di drogarmi. Sono pulito da 6 mesi quasi, non tocco cocaina e crack da 6 mesi. Sono veramente un'altra persona, ho salvato qualche dente. Vi ringrazio, grazie a tutti, grazie a tutti, ciao, ciao, arrivederci. Sento le voci, sì, mi sento chiamare dalle mie fantasie. Yeah! Dei sogni inconfessabili. Sento le voci, sì, mi sento chiamare dalle mie fantasie, dal profondo del mare, dalla TV, dalle porcherie, dal silenzio dei sogni inconfessabili. Demone scimmia! Demone, perché ha chiamato oggi? Com'è la situazione lì in comunità? Ma solita merda! Un dottore chiamato un dottore. Cosa? Qui c'è un ragazzo che muore affogato nella palude. Quando? Del Nazional Popolare. Papi! Non vedo la lucetta rossa. Come mai? Menagramo d'un menagramo. Ciao, sono Agostino Ferrante e anch'io mi faccio inculare con lo strapon da mia moglie. I love my radio. Ciao, sono Alessandra di Torino e ci tengo a dirvi che io ci tengo molto al mio ciuffetto di pelo perché incanula il getto di piscio. Diversamente senza, ti pisci completamente sulle cosce. Cosa? Luciani, ma hai veramente detto di essere il protettore delle prostitute italiane? No, sì. È, Renzo, una confessione? Ma Renzo, ma non è reato? Cruciani, scusa, ma quanto costa il biglietto aereo per il Colorado? Voglio diventare l'amante ufficiale della Morellato. Non è facile. Ma come si fa a rifiutare delle proposte così? Questi americani non capiscono proprio un cazzo, Voglio diventare l'amante della Morellato. Beh, sei in fila, amico mio, perché certamente la ragazza è ambita. Devo dire anch'io che Adam, sai che vorrei conoscere Adam, il marito della Morellato. Lo vorrei davvero conoscere, Adam. Perché è un personaggio. Uno, innanzitutto, che accetta che la moglie parli così tranquillamente in inglese, in italiano, delle sue prestazioni sessuali, eccetera, eccetera. Già, no, appunto, già, esatto, è un personaggio atipico. Già questo. La moglie fa un'offerta, becchiamo una ragazza e mettiamola in mezzo, e lui dice di no. Beh, questo amico mio, io penso che non c'è una persona al mondo, poche persone, forse Adino Olfi, forse Ruggero che manco scopa, e altre persone che potrebbero rifiutare un'offerta del genere. Ragazzi, ditemi la verità, chi può rifiutare un'offerta del genere? La vostra moglie, la vostra compagna, la vostra amante, la vostra ragazza, non so, qualsiasi posizione essa abbia nella vostra vita, che a un certo punto ti dice: guarda, ho voglia di prendere una ragazza e metterla insieme a noi, in mezzo a noi. Chi è che rifiuta oggi? Nessuno, non c'è una persona che conosco che rifiuta. Una persona non esiste. No. Diciamo la verità, non lo puoi dire, David, ma anche tu non diresti di no. Anche tu, cioè, se tua moglie, no, adesso non avviene, lo so, siete in un'altra fase, capito, però sì. Ma cosa? E sei incerto, è perché sei incerto. Ma non sono incerto, ti va, è quel criminale, è quel criminale assassino di la corte, io lo porto all'AIA, ti porto al tribunale dell'AIA te. Sì, però il punto è un altro. Anche in questa situazione, se ti esprimesse questo, cioè se ti palesasse questo desiderio, non potresti dire di no. Ma sei incerto, lo so. Sei incerto, lo so. È la voce registrata, maledetti. No. Comunque, ragazzi, il 99,9% delle persone sicuramente direbbero sì. Matteo da Pesaro, vai Matteo, dimmi. No, io chiamavo per quel coglione di ieri che si lamentava dei camionisti. Sì. Ecco, Matteo, tu sei proprio cadi a fagiolo. Tu sei sposata, hai una fidanzata? Io sono separato. Sei separato, vabbè. Sei una fidanzata, hai qualcuno? No, adesso no. Adesso, se una donna ti dicesse voglio un'altra donna da mettere in mezzo a noi, diresti di no? Ma se mica sono scemo. Ma appunto, ragazzi, ma come cazzo si fa questo Adam, l'americano, il militare? Ma come cazzo si fa? È una cosa incredibile. Matteo, che volevi dire? Scusa. Io volevo dire che quello lì è un coglione. Quello lì sarà uno di quelli che cammina a 400 km nella corsia centrale con nessuno a destra e a sinistra. E va a rompere i coglioni chi lavora. Compreso Parenzo, naturalmente, tra questo. Parenzo è un automobilista doc che cammina lì. Sì, sta lì. Poi fa anche il dito medio quando uno rompe i coglioni. È uno di quelli che lampeggia, quelli che lampeggia sempre. Lui bravo, lampeggia. Con le quattro frecce, io metto le quattro frecce. Se uno dietro io metto le quattro frecce, bravo, esatto. Pensa. Te lampeggi 300 km prima che arriva la macchina davanti perché vuoi passare. Bravo, Matteo, bravo, uno del genere bravo. Come Parenzo, cosa faresti tu quando sei lì che stai lavorando? Ti metti piano piano sulla sinistra finché non si appoggia sugli esercizi centrali . E poi vedi la resistenza dell'auto. In che senso? Scusa, non ho capito. Lo schiaffi contro gli esercizi. Vabbè, ho capito, però. Questo non è una cosa proprio delle regole del codice della strada. Però si capisce. Sì, però come dire, ti fa perdere la brocca uno così, questo vuoi dire tu? Sì, no, fanno perdere perché loro non capiscono cosa vuol dire. Noi stiamo sulla strada tutti i giorni, loro rompono sempre. Scusami. Perché loro hanno le macchine. Per curiosità, Matteo, tu da separato, vai a puttane per caso, Matteo? Cioè, frequenti prostitute? È una tua abitudine o no? Vogliamo sfatare. Non è che tutti i camionisti vanno a troia, non tutti. Ciao. Fortunatamente sono a posto. Beh, a posto, non è che quelli che ci vanno non sono a posto. Stai gettando merda sui tuoi colleghi. Dai. Ciao, Matteo. Adesso ti chiamo un personaggio, David. Ti chiamo un personaggio che un grande negazionista del Covid dice è stata una strage di Stato il Covid. Professor Bacco, medico Bacco, anche animalista. Sentiamo se risponde, va. Bacco? Sono Cruciani. Ah, ciao Cruciani, dimmi. Ma è vero che tu hai detto che è una strage di Stato? Certo, è una strage di Stato. Cioè il Covid è una strage di Stato? È una strage di Stato perché abbiamo ucciso, un verbo preciso, ucciso le persone nelle terapie intensive. Ma cosa vuol dire ucciso le persone nelle terapie intensive? Al massimo si possono curare le persone, cioè qualcuno muore. Noi le abbiamo uccise perché per il governo di fatto non ci ha fatto fare le autopsie. Noi abbiamo sbagliato tutte le terapie e le abbiamo uccise. Abbiamo fatto tutto il contrario di quello che andava fatto. Ma stai dicendo una cosa gravissima, cioè che il governo dovrebbe... La verità. Ho capito, qualcuno dovrebbe essere accusato di strage allora. Certo, deve essere accusato di stragio. Il governo non ti ha fatto fare le autopsie, tu non hai visto che cosa era la malattia e quindi gli hai dato tutto il protocollo terapeutico completamente sbagliato. Non ho detto che l'hanno fatto apposta, ma li abbiamo uccisi, è il verbo reale, uccisi. Se tu parli con i medici che stavano lì, lo sanno benissimo che li hanno uccisi. Scusami però Bacco, tu mi stai dicendo una cosa pure, almeno da quello che ho sentito, che tra l'altro la mortalità sarà bassa, cioè tu la consideri una piccola pandemia, una cazzata questa roba qua. Il virus è un virus banalissimo che non ha ucciso nessuno, non c'è un solo nome di una persona sana sotto i 60 anni che sia morto. Ma cosa dice? Ma cosa dice? Questo virus è ridicolo. Ho capito, lei è ridicolo, lei è un irresponsabile, altro che il virus. Ma come si permette? La verità, questo governo è una vergogna. Noi abbiamo ti dico anche una cosa più grave. Abbiamo istituito la pena di morte in Italia. Noi abbiamo messo i soggetti positivi nelle RSA, cioè a contatto con gli questa è una vecchia cosa, sì. Sì, è benissimo, ma è una pena di morte però. Io voglio capire una cosa. Allora è pericolosa o no sta cosa? Perché tu mi dici alla fine è una cazzata. È una roba, una banalissima influenza, poi dici che c'è stata la strage di Stato. Cruciani, qualsiasi virus, qualsiasi patologia curata male o non curata può diventare mortale. Di questo ce lo dobbiamo dire. Sì, ma c'è del terrorismo oggi su questo virus? Cioè ancora stanno facendo terrorismo? Ma tu vedi questi altri matti che continuano a dire ritorna, non ritorna? Cioè qua siamo nel ridicolo. Qua non è stata neanche una pandemia, non è stata neanche un'epidemia. Questa è stata una situazione assolutamente ridicola. Ancora che parlano, ancora che ci costringono a portare le mascherine, questi folli uomini politici che erano finiti, che cavalcando il Covid sono arrivati le pagliacciate tipo i lanciafiamme. Il virus non c'è più. Ma c'è chi è sto irresponsabile? No, ma chi sei? Chi è questo irresponsabile? Io sono un medico che dice la verità. Il virus non c'è più e continuiamo. Continuiamo perché vogliamo questa politica del terrore, solo una politica del terrore, con questi allarmisti che sono assolutamente fuori di testa, per questi cialtroni che ci comandano, un ministro della sanità che non capisce niente di medicina. Questo virus è un virus ridicolo, dobbiamo dire le cose come stanno. Io dico solo e Davide sta zitto di fronte a questo che dicendo che il Covid è una puttanata, che il ministro della sanità trovo, è una specie trovo di questa persona è non semplicemente un irresponsabile, ma bisogna prendere le generalità di questa persona e denunciarlo. Lei sta dicendo noi delle cose di una gravità inaudita. Inaudita. Di dire la verità. Ma quali noi pochi medici? Lei verità. È un irresponsabile. Lei è il Trump dei medici italiani. Questo è lei. Chi è che suona adesso lì? Dovrebbe essere cacciato, secondo la te. La polizia hanno suonato. Sarà la polizia che sta venendo ad arrestarla. Ho sentito il campanello. Ascolti, io sono uno dei pochi medici che ha detto la verità. Questo virus si è montato tutto. Ma chi tutto l'ha fatto? Montato. Che c'è dietro? Diciamo che la cosa gli è un po' scappata di mano. Tutte le strade portano ad una cosa, al vaccino. Tutto porta al vaccino. Le grandi aziende farmaceutiche. Mamma mia, guarda. Ma perché adesso scopriamo che le lobby farmaceutiche nominano anche i politici in tutto il mondo hanno il problema del Covid, irresponsabile che non sei altro. Scusami Bacco, le linee guida me lo devi far dire questo Cruciani. Cosa? Dimmi. Se seguito lo stesso disegno, perché le linee guida vengono da un'unica associazione, un'associazione terribile che si chiama OMS. Tutte le linee guida sono venute da lì e sono state seguite in realtà, ma no, tutto il mondo ha reagito così. Scusa, ma tu noi avevamo i trombi nelle persone, nelle terapie intensive le persone sono morte per i trombi. Noi curavamo, mettevamo l'ossigeno ad alta pressione, ossigeno puro, gli ha bruciato i polmoni. C'era scusami, la tromboembolia. Ma tu credi anche al nuovo ordine mondiale? Al nuovo ordine mondiale che ha dettato. Guarda, io non ci avevo mai creduto, ma visto quello che vedo, ancora vedo le persone con le mascherine, devo iniziarci a credere anch'io. Ma purtroppo. Perché tu butti tutto invece, tu le mascherine non le usi, eccetera. Ma assolutamente. Le mascherine in questo momento sono dannose. Sono dannose perché in questo momento il virus è così debole che se anche ci dovessimo infettare dovremmo ringraziare Dio, perché diventiamo immuni e diventiamo delle banche del plasma. Io sono, però su questo devo dire la verità. Io anch'io spero in questo momento, purtroppo proprio del lavoro. Spero in questo momento di prendermelo. Sono un po' da questo punto di vista, non è che sono, io non credo. Ma è così, Non stiamo dicendo sciocchezze, è così. Invece questi allarmisti che corrono tra cui Parenzo, tra cui Parenzo, Prudenza, ma Prudenza, io sono l'allarmista. Io Prudenza, Prudenza, Prudenza, io mi fido di quello che dicono gli esperti. Io sì, molto amico di Burioni, certo. Cioè, se tu ti devi fare, se tu devi prendere qualche consiglio, lo prendi da Burioni o da Bacco? Ma io da questo qua non mi faccio togliere neppure il tartaro dai denti con la corda, col capito, con il filo interdentale. Fatto morire le persone nelle terapie intensive, andate a vedere le autopsie, abbiamo bruciato i polmoni a questa gente. Tu che sei pure animalista, una piccola parentesi, tu che sei pure animalista, quel poliziotto che ha sparato al cane, cosa faresti? Dimmi la verità, Bacco. Tu sei pure mi devi far fare, non doveva spararlo, diciamo così. Ha sbagliato. Ciao Bacco, ciao caro. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta La Zanzara. Parenzo, tutte le sere lo chiamano nano e non dice un cazzo. Video dei neri che leccano la figa. Stavo ascoltando il podcast di qualche giorno fa e sono rimasta sinceramente molto colpita dal messaggio che vi ha lasciato quella tizia, che ha detto che lei guarda Pornhub e che predilige i video dei neri che leccano la fica. E devo dire la verità, non mi ci sono mai soffermata io sui video dei neri che leccano la fica. Io di solito guardo Pornhub, ma prediligo, diciamo, i video di anale. Sono proprio fissata con i video dell'anale. Però effettivamente i neri che leccano la fica potrebbe essere interessante come categoria. Bisogna che mi informi meglio e poi penso che vi terrò aggiornati. Allora c'è qualcosa che non funziona. Se abbiamo 60 ospiti in terapia intensiva, di cui 27 in Lombardia, e quindi un numero che è poco più di una unità per regione. La follia ha preso le nostre menti, quello è il contagio. Il virus che rende folli, questo è stato. Ed è una comica ormai. Ora, io trovo abbastanza ridicolo. Certo, con questi dati, con 17 morti, potresti anche tentare di non fingere che la mascherina è utile. Non lo è! Perché quella mascherina dopo 4 ore perde ogni efficacia e non impedisce, come sappiamo da ogni evidenza, che il morbo passi lo stesso. Però stiamo recitando questa parte di uomini mascherati. E io vengo redarguito dalle vicepresidenti ogni volta se la metta bene, se la metta a posto, se la metta con eleganza. È una comica, ridicola! Lo dico perché se dobbiamo liberare l'Italia non dobbiamo immaginare il 31 dicembre o il 31 ottobre, ma dire agli italiani quello che vogliono, quello che desiderano, di poter riprendere a lavorare come prima, dimenticando questo grottesco momento di idiozia, di recita, di finzione, di farsa, in cui la verità del male è sopraffatta dalle nostre inutili parole. Il diritto di disobbedire, ribellarci, combattere, vincere contro il male. Grazie onorevole Sgarbi. Allora siamo qui ragazzi per questo finale scoppiettante, già ve lo dico, perché adesso chiamiamo, speriamo che risponda, un avvocato che ha battibeccato sull'internet con un signore, pare un educatore, un ragazzo di 23 anni, omosessuale. Le frasi di questa signora, un avvocato, sono le seguenti: i gay sostanzialmente non possono lavorare con i minori. Poi ha detto che gli omosessuali sono disturbati psichiatrici e trasmetteranno il loro disturbo nelle scuole. Così ha detto, L'omosessualità non può diventare un modello. Gli omosessuali sono una minoranza. L'omosessualità è un disturbo, l'abbiamo detto, che si può curare. La gente che si slingua con le persone dello stesso sesso non dovrebbe stare a contatto con i giovani. Chiamiamo. Pronto? Sì, avvocato? Sì. Buonasera, sono Cruciani, Radio 24. Buonasera. Come sta? Insomma. Beh, è successo un casino con sta storia, eh. È successo successo un casino, ma se vuole le spiego veramente come è andata la realtà dei fatti. Sì, sì, sì, prego, dica pure. Lei si basa sulla ricostruzione dei fatti che ha fornito questa persona, che io non so chi sia e non ho mai visto in vita mia, sì, che ha ritenuto di contattarmi privatamente minacciandomi. In che senso minacciandola? Sì, mi ha mandato un messaggio privato con una minaccia. Prima questo qua? Certo, sì, purtroppo questo il ragazzo lo ha omesso, ma le cose non sono andate come... Ma al di là di questo, però, lui ha pubblicato degli screenshot, questo ragazzo, no? Questi screenshot, queste frasi che io ho scritto, riguardano il mio pensiero, sì, e non il ragazzo in questione, che, ripeto, io non so nemmeno chi sia. D'accordo, ma questo fa, lei fa lui bene... Lui si è qualificato come educatore, sì, cosa che... non mi risulta, per il resto io non... No, però voglio dire, quando lei dice che la gente che si stringa con le persone dello stesso sesso non dovrebbe stare a contatto con i giovani, lei dice sostanzialmente che i gay non possono insegnare. Io ho detto nel video successivo che penserai la stessa cosa di due persone eterosessuali che si slinguano pubblicamente e poi hanno a che fare con i bambini, perché vede, la mia bambina ha subito il gay nella scuola, io non lo sapevo e io non... Non ci si può dare un bacio, capisce. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Nella scuola me la travestivano da maschio a 20 mesi, capito? Adesso questo è un altro discorso, la vestivano da maschio? No, questo è proprio il discorso. Scusi, quindi, però quando lei dice contento, che l'omosessualità è un disturbo, lei, questa è una frase grave, l'omosessualità è un disturbo che si può curare. Ma lei è una fan della De Mari? Guardate, a me questo modo di condurre le cose a me non piace. No, è una domanda. È una domanda. Lei non mi tira su questo discorso. Ma scusi, è lei che l'ha scritto, l'omosessualità è un disturbo? Non l'ho scritto? Ma l'ha scritto lei o no? L'omosessualità è un disturbo? Io ho scritto delle cose. In cui crede? In cui crede, immagino. Ho espresso il mio pensiero che esprimo dove, come, ma e certo, ma nessuno ritengo. Ma nessuno dice che lei non lo può fare, assolutamente. Allora lei ha un tono che a me ma dà no, fastidio. Non è un tono, ma non è un tono che a me dà fastidio. Vabbè, d'accordo, i toni quindi, sono i toni. Come lei non mi consente, se lei fa il giornalista d'assalto, ma lei quale assalto? Di mestiere interrogo gli altri, capisce qual è la questione? Ho capito. Lei ha scritto l'omosessualità è un disturbo che si può curare? Sì o no? L'ha scritto o no? Ho fatto uno screenshot del libro del manuale di psichiatria, sì, dove sono ricordate queste cose. Dopodiché, caro, ma lei ci crede o no? Mi chiamo Cruciani. Nel Cruciani, ecco, bravissimo. Sì. Ma lei ci crede o no? Nel video successivo io ho detto che l'OMS ha dichiarato che questo disturbo non esiste più. Ma quale? Ho capito, ma lei ha scritto che l'omosessuale è un disturbo che si può curare. L'ha detto lei a questo ragazzo? Sì, l'ho detto. No, non l'ho detto il ragazzo. Non l'ho detto il ragazzo, mi dispiace per lei, ma sì, non l'ho detto. Sì, l'ha detto in uno screenshot che lui ha riportato, d'accordo. Il ragazzo non l'ho detto. Sì, ma non siamo in tribunale qui, non siamo in tribunale. Non l'ho detto al ragazzo. Poi lei ha utilizzato una volta la parola froci, che io utilizzo, per esempio. Io non ho utilizzato quella parola, l'ho utilizzata al plurale e non era riferito al ragazzo. No, non era riferito al ragazzo, però l'ho utilizzata. Ma guardi, io la utilizzo quella parola, non è un problema. Cioè, io la utilizzo. Allora cosa vuole da me? Scusa. Allora, bisogna rivendicarlo. Lei si può utilizzare tranquillamente la parola froci. Lei pensa veramente che sia un disturbo, a parte l'OMS, lei pensa che veramente sia un disturbo? Io ho detto che nel manuale che avevo davanti di psichiatria. Che è superato ormai, però. Che è superato. Parli lei. No, ma è superato, dico. Non mi interessa quello che deve dire lei. No, io cito quello che voglio. Ma lei cita quello che vuole. Io cito quello che voglio. Se voglio, le cito la Bibbia, dove c'è scritto che Dio fece l'uomo e la donna. Tertium non datur. Ecco dove siamo arrivati. Quindi tertium non datur cosa vuol dire? Che nella Bibbia non erano previsti l'omosessualità. Ma che vuol dire? Lei conosce, ma che vuol dire? Ma certo, l'ho fatto il liceo classico anch'io, cara. Tertium non datur non vale per le questioni legate alla sessualità, perché ma se esistono gli omosessuali, tertium datur. E allora perché ha detto tertium non datur? Ma chi ci va nelle scuole, scusi, ma chi ci va a insegnare? Vabbè, a caso di sua figlia, non lo so, non lo conosco. Non lo conosco, sì, ho una figlia di 15 anni, sì, abbiamo tutti figli, guardi, non si preoccupi. Lei l'omosessualità, se sua figlia un giorno deve venire a casa a dire sono omosessuale, allora non sarà un problema. No, certo, perché per lei sì, invece. Ma certo che no, certo che non è un problema. Cioè, se lei avesse un figlio o una figlia... Io graderei di no. E perché gradirebbe di no? Perché gradirebbe di no? Ma perché gradirei di no? A me danno fastidio le persone con i capelli rossi, a lei piacciono? Ma no, ma perché gradirebbe... motivo per quindi cui lei discrimina, quindi lei fa discriminazione. Questa è una preferenza personale. Guardi, se uno non gradisce un figlio gay, non gradisce un figlio gay. Ma però, no, non deve, ma cosa mette giù? Ma cosa mette giù? Però scusi un attimo, quando lei scrive la gente che si slingua con le persone dello stesso sesso non dovrebbe stare a contatto, in realtà non è che dice le persone che si slinguano in generale, dice le persone dello stesso sesso che si slinguano. Appunto. Diciamo la verità, cioè non è che si rivolge a quelli che si slinguano, o no? Io nel video successivo ho scritto che mi riferivo anche agli eterosessuali. Beh, ho capito, ma scusi, lei ha scritto lo stesso sesso nel video successivo quando è allora successo il casino. Quando l'italiano è successo il casino, però. Allora lei non capisce. No, allora ma lei la realtà è allora questa, che lei ha capisce. Detto certe cose, non ha nemmeno il coraggio di confermarle. Lei fa questo la furbetta, il no, questo è il tema. Il tema è che lei fa la furbetta. Cioè, la gente dello stesso sesso che si slingua, secondo lei, in pubblico non dovrebbe essere a contatto con i giovani. Io ho detto che se ci sono persone che sono a contatto con i bambini nelle scuole, non debbano avere un profilo pubblico in cui si manifestano in atteggiamenti sessuali espliciti. No, nello stesso sesso, dello stesso sesso. Dopo. Io ce l'ho, Ma ho capito, ma lei l'ha detto dopo, ma scusi, ma perché si deve nascondere? Se due si baciassero, se due questo. Persone si baciano e sono eterosessuali, lei non l'avrebbe scritta quella cosa. Diciamo la verità, se un educatore, se un insegnante... No, guarda, lei si sbaglia, perché lei non mi conosce, io sono... faccio l'avvocato che io mi batto per... Scusi, ma non mi prenda in giro, perché... Ma non mi prenda in giro su questa cosa. Lei, se avesse visto un educatore con una donna... Ma lei vuole prendere in giro? Scusi, se lei avesse visto un video pastiglia, o una... Ma io non ho bisogno di pasticche, non si preoccupi. Ma io sono... È lei che vuole prendere in giro dicendo no, io lo dicevo per tutti. Ma non me, lo... lei non me ne frega nulla. Figuriamoci quanto... Ma figuriamoci quanto me ne frega... Figuriamoci quanto me ne frega a me di lei. Lei ha visto una foto di uno che fa l'educatore, non so se faccia l'educatore, che si baciava, e ha detto che due persone gay, se uno fa l'educatore, non possono restare in contatto con i giovani, cioè sostanzialmente non può insegnare. Questo ha detto, poi se lo vuole ritirare è un altro discorso. Come no, ho detto questo, e comunque anche se l'avessi detto mio diritto pensarlo. Ma certo che ha diritto, chi ha detto il contrario? Ma chi ha detto il contrario? Ma chi dice il contrario? Lei non conosce bene la... sa cosa le dico? Che secondo me una persona che fa il giornalista, il radiofonico, quello che è, la Costituzione la dovrebbe conoscere prima di fare... Ma lei può avere... Ma guardi che non mi conosce, lei ha il diritto di dire quello che vuole, ha il diritto di dire quello che vuole. Ah, quel paese. Ragazzi, a domani, italiani! Italiani! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8. Ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Forse dovremmo avere in video collegamento il professor Meluzzi. Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it.